Sì, ci dovrai ascoltare per scoprire tutto su di lei. Abbiamo almeno un ascoltatore stasera, per cui attenzione a quello che diciamo. Allora, beh, cominciamo così. Capito? Questo è il nostro jingle di Jenny O'Neill, mentre invece questo. Creatività generica. È la cosa di cui ci occupiamo oggi, creatività generica. Gianluca, tu vuoi andare per secondo. Sì, io sempre l'ultimo. Tu vuoi andare per secondo. Allora parliamo di. Chi è Armenia panfolclorica che ci hai portato, Lucia? Allora, inizio io dicendo che mi sono subito innamorata delle sue opere e della sua energia. Grazie, Lucia. Non ci conosciamo da molto e io l'ho conosciuta in una collettiva all'MTN mentre installava delle cose complicatissime che venivano giù dal soffitto, dei pani molto belli che si rifacevano alla tradizione folclorica, perché sono pani rituali. Esatto, non semplicemente del cibo, ma è un cibo che ti fa riflettere sullo spirituale. E quindi a questo punto ti chiedo, se tu dovessi presentare la tua ricerca in poche parole, che cosa diresti a chi ci ascolta? Allora, la mia ricerca artistica potremmo definirla a pieno titolo sincretista. Mi piace mettere a confronto culture geograficamente lontane, ma la cosa sostanziale è il recupero di antropologie e di riti ancestrali che si perdono nel tempo, dove paganesimo e culture anche paleocristiane o di altre religioni antiche si fondono. Quindi è importantissimo sia il discorso, insomma, di queste azioni, no, che si rifanno a questi riti, però anche tutto quel corredo che vado a costruire di maschere, oggetti dipinti, e chi più ne ha più ne metta. Bellissimo. Hai capito? Sì. E quindi così, insomma, io vi invito a vederle le sue cose. Adesso sapete questo nome importante, Armenia panfolclorica, che è un nome che... Il nome è fantastico, devo dire. Sì, ovviamente per questo epiteto devo dire grazie a quello che è stato il mio professore di pittura, Bruno Benuzzi, perché lui all'inizio mi prendeva in giro con vari nomignoli, mi diceva Armenia Anatolia, Armenia Iridea, come la trota, insomma, e alla fine mi ha chiamato Armenia panfolclorica, appunto perché ho a che fare, mi sporco le mani con tutti i folclori che posso trovare in giro, così. Esatto, poi veramente viene un fil rouge pazzesco con la puntata precedente. Con la puntata precedente, quando abbiamo parlato con Francesco Lauretta, che è tuo vicino di casa, mi dici. Esatto, dal mio paese, Rosolini, si può arrivare tranquillamente a piedi come facevano i vecchi fino agli anni 50, a Ispica. E tra l'altro un caro saluto a Francesco, che io adoro. E speriamo che ci ascolti. E che si stia ascoltando, fantastico. Ormai è diventato un fan di sicuro. Io l'ho mancato sabato scorso perché io mi sono fatto il weekend di Artissima. Bravo. Al contrario di voi, immagino. No, infatti, ho chiuso in casa. 31.500 visitatori, dice il comunicato stampa finale. Fra l'altro, è andato bene. Infatti. Fra l'altro, volevo raccontarvi che se fino a domani, fino al 9 novembre, se andate su xyz.artissima.art, potete ancora vedere la parte digitale di Artissima, che è disponibile sul sito, però solo fino a domani, per cui vi dovete sbrigare stanotte e domani pomeriggio. Praticamente, no, devo dire che sono stato piacevolmente sorpreso da Artissima, perché era, come al solito, una gran bella fiera, con un sacco di opere interessanti, e anche i premi sono stati molto piacevoli, soprattutto sapere che Ivana Spinelli ha vinto. Evviva. Ha vinto il premio, adesso non mi viene in mente il nome, era quello di io ricordo Caro Rama, esatto, il premio quello, Caro Rama. Sì. Dai, complimenti, congratulazioni a Ivana, congratulazioni a Francesco per la mostra, che deve essere meravigliosa. Ah, certo, assolutamente, la mostra stiamo parlando della mostra di Lissone, al MAC di Lissone. Sì. E poi c'era questa riflessione sul rito, che ritorna moltissimo nella ricerca di Armenia, perché si è interessata non soltanto alle forme, ma proprio alla ritualità, quindi al gesto, perché soprattutto poi è performativa la tua ricerca, giusto? Esattamente, però devo dire che questa, cioè, mi avvalgo non soltanto di ricerche a proposito del rito, che poi non mi si è attivato a caso questa volontà di ricercare questo interesse per questo tema qui. Io mi sono trasferita, diciamo, al nord, come si suol dire, dalla Sicilia 14 anni fa, e appena sono arrivata io dipingevo quasi come un'espressionista tedesca, per dire, però via via mi rendevo conto che non era così facile calendarizzare le stagioni a Bologna come in Sicilia, perché da noi proprio il calendario ha tutti questi pallini rossi aggiunti, tipo la festa di San Martino, la festa dei morti, no? A seconda del periodo. Quindi dicevo, mi mancano le carte a morto per strada, mi mancano le processioni, i botti per aria, e quindi ho detto, le devo ricreare io queste cose, un po' come i neri d'Africa portati poi ingiustamente nelle epoche che furono altrove, cercavano di, ed è questo il vero sincretismo, no? Di ricreare con altri mezzi i riti che portavano dalle loro terre. Certo. In forma ovviamente molto più modesta, ho cercato di farlo anch'io, e anche in quelli che sono i linguaggi dell'arte contemporanea. Poi sicuramente l'altro filone importantissimo è anche la letteratura. Come dicevo, ultimamente ho fatto un lavoro ispirato a una poesia di William Blake, Poison Tree, e adesso il 14 di novembre sarò al CISIM di Ravenna, portando una performance dedicata a mia sorella dal titolo Un sogno de Neiente, che è un libro che lei ha pubblicato, ma non è tanto ispirato al contenuto di questo libro, è ispirato proprio al poeta e alla sua poiesis. Quindi è una visione proprio, è dedicata interamente a mia sorella nel suo fare artistico e insomma poetico. Bellissimo, un appuntamento da segnare sul calendario, sì. un pallino rosso da aggiungere. Che stiamo ascoltando è Waterfall dei Lunar Dump, perché è uscito il nuovo EP di questo duo veronese che si chiama Lipo, tra sperimentazione, psichedelia ed elettronica dal retrogusto francese. In effetti sono, non lo dovrei dire, ma sono uguali agli Air. Però sono fantastici, voglio dire, gli Air non esistono più, per cui perché non avere il Lunar Dump. Tra fra l'altro è piuttosto comodo il fatto che non cantano, per cui noi possiamo ricominciare a chiedere ad Armenia Pan Folclorica. Cos'è che hai detto che fai durante la fiera? Racconta. No, allora adesso mi tengo appunto molto sul vago e sul misterioso, okay, perché poi mi piace sempre, no, così tenermi su. Sì, no, infatti hai già innamorato uno dei nostri ascoltatori. Ah, per cui bene, bene. Molto bene. Sono felicissima. Sappi che funziona. Bene. Nulla, in pratica, come ben sappiamo, l'ultima settimana di gennaio, se non sbaglio, Lucia ogni volta inaugura Artefiera. E quando ci sarà insomma l'inaugurazione, il vernissage, contemporaneamente ci saranno degli eventi off in città. Uno di questi si svolgerà praticamente su Piazza Santo Stefano e quindi farò intorno alle una roba in notturna, diciamo, non è proprio notturna, è serale, alle 10:30, 11, questa performance. Spero di non prendermi un acciacco perché proprio ci sarà freddo. Magari eviterò di fare cose che prevedono nudità, ecco. Ma come? Ti autocensuri, ne parlavamo prima. Sì. Oscar Moroni era già lì che si stava già preparando per venire, sperando nelle tue nudità, invece niente. Comunque ha detto che non ti ama più perché hai detto calendarizzazione. Ok, allora chiedo perdono. Non ti preoccupare. E questo era appunto Waterfall da Lipo, il nuovo EP del duo veronese Lunar Dump, che è uscito il 22 ottobre. Yeah. E così. E dunque, di che cosa parliamo adesso? Chi è che sei tu la co-conduttrice? Raccontami. Io qua ho... Io ho seguito il tuo consiglio, hai detto l'altra volta, si giustamente, se il lunedì trovate i musei chiusi e volete vedere qualcosa di bello, andate all'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e andate a vedere la nuova mostra che è stata inaugurata venerdì scorso. Ci sono andata e sono rimasta piacevolmente colpita, ma sono rimasta incantata dai lavori di Zucchini. Hai e consiglio capito. Tutti di andarci. La mostra chiude il 24 di novembre, quindi c'è un po' di tempo, ma non tantissimo. E sono lavori interessantissimi, c'è proprio una ricerca della costruzione e della distruzione. Vabbè, tu lo sai, no? E poi ci vado sempre incontro a questo tipo di idea qua del ciclo che inizia, arriva al suo apice e poi va verso la distruzione per poi ricominciare, no? Che quello che mi ha reso anche subito amica la nostra Armenia panfolclorica. Hai capito. Perché sì. E quindi mi piace questa idea che lui ha utilizzato dei pattern decorativi destrutturando completamente la centralità dell'opera. Sono veramente interessanti dal punto di vista pittorico, ma anche proprio soprattutto compositivo. Hai capito. Per cui praticamente è come se fossimo già dentro l'angolo della menzione. Ok. E questo ci aiuta, perché poi invece a me è arrivato un WhatsApp dal mio caro amico Paolo Beretti, che saluto, che per dirmi che da ieri, dal 6 novembre, no, ieri l'altro, la Sala Borsa ospita in scuderie la mostra Voci dalla scuola, diario di un disagio, nell'ambito del Festival Young About. Si tratta di un'esposizione di elaborati ideati dagli alunni di varie scuole inerenti ai disagi vissuti nel periodo della pandemia. E loro sono stati, i ragazzi sono stati invitati a raccontare quel vissuto durante la pandemia e con alcuni, sono stati coordinati da alcuni professori e i ragazzi vengono dagli istituti, dal liceo artistico Francesco Arcangeli, dallo scientifico Copernico, dal ginnasio Minghetti, dalla scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci. E la mostra è partita sabato in Sala Borsa ed è su fino al 20 novembre. E adesso vado anche a raccontarvi, perché mi diceva dove è andato, eccola qua. mi dice il professor Beretti, una classe ha realizzato con Illustrator dei disegni che simboleggiano la situazione degli adolescenti chiusi in casa, ognuno racchiuso in una piccola casetta. Un'altra classe ha scattato delle fotografie della propria finestra, poi ritoccate con Photoshop per immaginare il proprio futuro. Due classi, questo interessa anche alla nostra Armenia, due classi hanno realizzato delle maschere con un insegnante di scultura, la professoressa Lucia Geraci, che salutiamo anche lei, poi esibite nel corso di una lezione attraverso una schermata Meet, che ho visto una schermata e secondo me ti piacerà. E infine l'ultima classe, coordinata da lui, dal professor Paolo Beretti, ha realizzato a mano e al computer delle illustrazioni in grande formato per descrivere e simboleggiare la condizione degli adolescenti in epoca Covid, che non è una cosa da niente, perché naturalmente stanno cioè sicuramente hanno sofferto e stanno tuttora soffrendo più di noi, più credo. Di noi. Sì perché hanno meno mezzi, esatto, sì, sono lo molto sai più anche spaventati tu. Assolutamente, io poi lavoro, figurati, alla secondaria di primo grado, ex scuole medie. No, dobbiamo far coraggio a questi bimbi, perché veramente ne hanno bisogno, non hanno alle spalle un passato dove, non so, appunto, sono stati messi in pericolo e poi dopo si sono ripresi. Io ho vissuto il terremoto da bambina. Ah, certo. Avevo 6 anni. Ed il chiaro. Sì, dell'80. Siamo stati Io l'ho sentito da qui, figuriamoci. Siamo stati fuori di casa anch'io. Più di 3 mesi. All'inizio vivevamo in una scuola. Ma quello era quello dell'Irpinia. Dell'Irpinia, sì, dell'80. Sì. A Bologna si sono sentiti entrambi. Quello dell'Irpinia forse di più, quello del Friuli però me lo ricordo meglio, perché stavamo guardando il telegiornale e il tizio del telegiornale si è buttato sotto il tavolo dalla paura. Si è ribaltato. Si è proprio, cioè, ha sentito la scossa ed è andato sotto il tavolo. In posizione di sicurezza. No, sono traumi che ti restano. Sono traumi che ti restano, e bisogno poi di risorse. Infatti, io ero al sesto piano, siamo scappati tutto. Il condominio sulla scala, era tutta la gente che correva giù per la scala. Certo. La cosa peggiore? Era terribile. Però sì, che fai? Del resto o fai così, altrimenti stai lì. Infatti. Ok. Ho messo anche lo stacchetto, perché così possiamo anche raccontare che il 9 e il 10 novembre, ovvero domani e dopodomani, l'Accademia di Belle Arti riapre. Riapre le porte, torna ad aprire le proprie porte al pubblico con un ampio calendario di incontri in presenza. Abbiamo domani due ospiti di fama internazionale, l'artista attivista cinese Badiu Cao e la regista, attrice, drammaturga Chiara Guidi, per proseguire poi mercoledì 10 con un reading di Ferruccio Giromini. Martedì 9 alle ore 11 si potrà assistere all'incontro con l'artista dissidente cinese Badiu Cao, che sta facendo parlare molto di sé con la sua personale alla Fondazione Brescia Musei in apertura il 13 novembre. Noto per la sua arte di protesta che sfida costantemente la censura del proprio paese d'origine, tanto da portarlo in esilio in Australia, dove ha portato avanti l'unico canale non filtrato dal controllo governativo capace di trasmettere i racconti dei cittadini di Wuhan durante il lockdown del 2020. Lo stesso giorno alle 17 si terrà la presentazione del libro Teatro Infantile, l'arte scenica davanti agli occhi di un bambino, di Chiara Guidi e Lucia Amara, a cura di Cristina Ventrucci. Luca Sosselli editore. Mercoledì 10 invece alle 17, sempre in Aula Magna, sarà la volta di Strafalcioni, reading di Ferruccio Giromini, in cui il giornalista, scrittore, critico d'arte e del fumetto legge e interpreta una selezione dei suoi testi più stravaganti. E tutto questo è all'Accademia di Belle Arti di Bologna, nell'Aula Magna, in via Belle Arti 54. Yeah! Meraviglioso programma, direi. Hai visto? Sì. Chiara Guidi è pazzesca come regista. Io ho fatto un seminario con lei. Hai capito? Sì, che poi è sfociato in uno spettacolo teatrale. Ed era sul silenzio, perché lei offre questi corsi anche agli insegnanti. E infatti, voglio dire, sono sulla piattaforma Sofia e da Bologna andavo a Cesena, ma volentierissimo, di notte andavamo a fare sto corso una volta a settimana, ma bellissimo, era tutto sul silenzio, su come impostare il silenzio dentro di sé e poi riuscire poi a comunicarlo alla classe. Molto molto bello. Chiara Guidi è Raffaello Sanz, no? Sì, esatto. Invece il 10 novembre alle 18 fuori registro, quaderno di pedagogia e arte contemporanea, in occasione dell'uscita del secondo numero di fuori registro, quaderno di pedagogia e arte contemporanea, si parlerà di bene comune con la curatrice Maria Rosa Sossai, che collabora alla rivista, l'artista Chiara Pergola, che noi conosciamo di fama, e il direttore del Mambo Lorenzo Balbi. Questo tema è diventato un terreno di un ampio dibattito trasversale alle istituzioni, ma anche alle associazioni culturali e all'operato delle singole persone. Fuori Registro è un progetto curatoriale, artistico, corale, i cui protagonisti sono coloro che vivono nelle istituzioni, scuole, accademie, ospedali, carceri, ma troppo spesso non hanno voce né rappresentanza. La pubblicazione bilingue italiano-inglese indaga il rapporto che intercorre tra educazione e arte contemporanea. Tutto questo lo troviamo dalla nostra cara amica Veronica Veronesi di Galleria Più, ovvero a Galleria Più, in via del Porto 48AB, alle 18 del 10 novembre. Immancabile. Dopodiché, ultimo appuntamento è quello di sabato 13 novembre, e il Museo Morandi prosegue la sua programmazione di eventi espositivi e apre appunto sabato 13 novembre a Casa Morandi Buongiorno Signor Morandi, mostra di disegni di Giorgio Lodi e documenti provenienti dagli archivi del museo e di Carlo Zucchini, curatore della mostra, che rimarrà visibile fino al 9 gennaio 2022 negli spazi di quella che fu la dimora studio del maestro bolognese. E questo è a Casa Morandi in via Fondazza 36 a Bologna da sabato. Non c'è inaugurazione, bensì semplicemente apertura, nel link che troverete come al solito su www.coxospaziale.blogspot.com. E poi, esatto, voglio andare di nuovo, visto che siamo nell'angolo della menzione. Dobbiamo. Esatto, Armenia, quindi ricordaci dov'è che possiamo vedere prossimamente il tuo lavoro, la tua performance. Allora, sarà il 14 di novembre, quindi è domenica 14 novembre, okay. Dalle 16 al CISIM di Ravenna. Non ci sarò soltanto io, si esibiranno anche altri due artisti che lavorano più con la musica, che sono Mondo Riviera e Polonius, e alla fine ci sarà la mia performance. Armatevi di Green Pass e tessera AIX, se non mi sbaglio, e accorrete numerosi, insomma, non rimarrete delusi. Ma questo quando, a che ora più o meno? Dalle 16, sì, dalle 16, dalle 16, okay, circa. E una cosa che mi sono scordata di dire, che per me questa performance sarà anche occasione di insomma limare il mio lavoro e di introdurre questo grosso tema che, sempre lasciando certi puntini di sospensione e tanto mistero, insomma, ho preso a cuore l'opera di questa grande attrice teatrale performer che si chiama Ilka Schembein, tedesca e poi naturalizzata francese, perché i francesi tendono a censurare di meno, non si sa mai perché, e quindi ha portato lì il suo teatro, dove addirittura ha vinto un premio per migliore teatro per teatro per l'infanzia. Però se vai a vedere le sue opere sono fortemente inquietanti e oscure, quindi ti fa capire che i francesi sono abbastanza, come Chiara Guidi, uguale. Il teatro, esatto, per l'infanzia di Chiara Guidi è pieno di figure enormi, pazzesche, cioè che possono gestire soltanto i grandi artisti e i bambini, e che sì, fanno pensare, fa riflettere. Sì, ma perché purtroppo è uno dei mali della nostra epoca, che ormai sono state moralizzate persino le fiabe, perché in realtà le fiabe prima erano proprio lo scenario dell'oscuro per eccellenza, esatto, come mi insegna mia sorella, che ha scritto anche un libro che si chiama Forse c'era e forse non c'era, di storie legate alla cultura del nostro paese, e sono tutte tremende comunque, certo, veramente dark. Ma raccontaci, sì, come si chiama tua sorella? Mia sorella si chiama Dorothy Armenia, esatto, perché esatto, Armenia è il vostro cognome, esatto, okay. Infatti io mi faccio chiamare solo per cognome, perché ho un nomen omen perfetto per... E il libro come si chiama? Il libro, quello a cui si ispira la mia performance, si chiama Un sogno de niente, e questo sogno di niente è proprio un sogno intimo che potrebbe appartenere a ognuno di noi, però diciamo che il caso vuole che ha a che fare proprio con un tesoro che non si può dire, impalpabile, che non si può vedere, un po' anche il sogno dell'artista in un certo senso, ed è scritto in una lingua curiosa, babelica, proprio veramente inventata, però in realtà che incrocia sia il nostro dialetto, il latino, il catalano, perché mia sorella comunque ha la fortuna di saper parlare tante lingue, e quindi è molto particolare. Cioè, se vi interessa vi dico qualche verso veloce, perché dici proprio... qualche verso veloce prima della pubblicità. Perfetto. Delle sette. Allora, secondo me si intende: sun cun cat chi vola luna e spero in cup de fortuna, sun cu lengua cas firruza intratista de cocuza, sun cu scondita princesa descargata de noblesa, sun cu anguinula d'esterna qui mi adluma una lanterna, una longa malautia sun cu bene sostenguta, sun cu sucu de cicuta Accademia me libraria. Quindi capite che sorella, che peso, che ciò che mi porto dietro. Ma è una sorella maggiore o minore? Maggiore in tutti i sensi, cioè proprio veramente questa spada di Damocle che mi penzola sul collo. Molto bene. Ma l'hai lasciata, l'hai abbandonata in Sicilia oppure anche allora abbandonata fino a un certo, grazie a Dio abbiamo ormai questi aggeggi infernali che ci consentono di rimanere in comunicazione, però no è sempre, teniamo sempre vivo il rapporto, nessun tipo di abbandono, e appunto ho dedicato ora questa prossima opera a lei, e quindi questo per me è... Sì, sì, un omaggio. È un tributo, esatto. Spaziale. Sara, per i miei dolori muscolari mi hanno prescritto delle iniezioni. Coxo spaziale. Eccoci ritornati. Non ho capito cosa è successo al mixer. A un certo punto la pubblicità ha fatto un casino da solo, spaventoso, però fingiamo indifferenza e continuiamo con la nostra fantastica puntata, anche perché dobbiamo parlare della sublime costruzione. Evviva, finalmente è giunto il momento. È giunta l'ora di parlare del nuovo libro di Gianluca Di Dio. Oh, e ahimè, visto che nessuno di noi l'ha letto, devi raccontare. Ma neanche tutto io l'ho letto. Anzi, lo leggerò adesso, perché per rifarmi un po' la bocca su quello che ho scritto, perché tutte le volte che si rilegge una cosa che si è scritta, certo, è sempre abbastanza strano, che sembra abbastanza strano e anche pericoloso, perché potrei anche decidere di stralciare qualcosa di qua, di questo, di 200 pagine, se magari ti per essere una matita, esatto, se matita vuoi rossa, matita blu, cioè. No, io per mettervi in atmosfera leggerei almeno l'inizio. Volete, però, se volete interromperlo potete farlo, esatto, scrivendo con SMS, WhatsApp o Telegram al 333 180 94 94, o lanciare della verdura digitale, delle cose un po' così. Sì, potete mandarmi una foto di una pera se volete. Allora, mi concentro? Concentrati. Per gran parte della mia vita ho creduto di dover raggiungere un luogo che mi era destinato. Avevo combattuto una lunga guerra ed ero pronto a tutto pur di arrivarci. Un luogo che ha continuato a nascondersi per anni e che non ho mai smesso di cercare. Fosse reale o no, ero convinto di trovare lì tutto me stesso, la mia dignità, ogni cosa che mi apparteneva e che avrebbe fatto di me un uomo conosciuto. Quel luogo, adesso lo so, era come il punto in cui l'arcobaleno tocca una foresta. Sembra sempre di intravederlo, di poterlo raggiungere in fondo, ma più vai avanti più ti svanisce dinanzi agli occhi, inesorabilmente. E tutto il viaggio compiuto, alla fine, non è altro che un interminabile ritorno al punto da cui sei partito, al luogo che hai abbandonato. Per tanti anni, però, non ho avuto pace. Mi sono affannato avanti e indietro, correndo sempre con la stessa foga, in una terra senza orizzonti, in un eterno presente, in cerca di un oggetto, di un volto che potesse far affiorare quel luogo all'improvviso e definitivamente. Ho fatto molti incontri in quegli anni, a volte inaspettati o perturbanti, altri solo maligni e incomprensibili. E ho perso compagni, amici, fratelli, che con me avevano diviso il viaggio e le speranze, nel tentativo ostinato di trovare una terra promessa. Questa è la storia di quella ricerca ossessiva e vana, una sorta di ricostruzione, o meglio di riedificazione del tempo di un essere umano, decennio dopo decennio, giustapponendo frammenti di una vita tarlata da sogni e allucinazioni, proprio come quella di un qualsiasi reduce di una lunga guerra. A chi vorrà leggerla dico questo: non credete a questa storia, è simbolica, farneticante, totalmente esagerata. Qui un fiocco di neve si trasformerà subito in una calotta polare e un decennio passerà in un battito di ciglia. Cercate al suo interno, invece, le tracce di una storia comune che non distingue tra passato e futuro, una storia che ogni volta si distrugge per poi riaccadere di nuovo, una costruzione infinita a cui tutti partecipano eternamente, senza scampo, una storia folle, un sogno sublime. Hai capito? Meraviglioso. Ecco, questa è il prologo scritto dal mio protagonista, che si chiama Andrei Nikto. E qui c'è un richiamo, diciamo, subliminale al tema fondante del libro, perché Nikto in russo vuol dire nessuno. E già in copertina, che voi vedrete sicuramente dalla radio, dalla radio si molto vede facilmente, molto bene, sì. C'è una testa di ciclope in copertina, una testa di ciclope che era la mia testa rifatta dalla mia compagna, che è l'unico addentellato col mondo dell'arte visiva che ho, che comunque vivo profondamente, perché che è Karin Andersen, che salutiamo. Infatti, ciao Karin. Bravissima Karin. E mi ha fatto questo dono di questa testa di ciclope, che a me piace molto, e che inizialmente era un ciclope che teneva in braccio una corriera bianca prima di mangiarsela, e che poi è stato estratto da una figura da cui è stata estratta solo la testa, perché in Voland lavorano molto col simbolo, e quindi è una cosa anche che a me piace, perché io lavoro con la simbologia e col simbolo. E comunque è un inizio, diciamo, un indizio di quella che è la storia di questo libro. Praticamente la storia ve la riassumo in poche parole, cioè in poche parole vediamo, speriamo. Allora, il protagonista si chiama Andrei, e la sua città, il posto, il suo mondo è completamente distrutto. C'è stata una catastrofe, un'immane catastrofe naturale, dopo una lunghissima guerra che ha portato via tutto, ha distrutto ogni cosa. E l'unica possibilità di riavere una vita, una dignità, e di accettare di imbarcarsi su una fantomatica corriera diretta verso nord, e che porta chiunque voglia salpare su questo viaggio, verso un oscuro cantiere dove si sta costruendo una cosa immensa, grandiosa, che si chiama appunto la sublime costruzione. E chiunque può farlo, perché chiunque può imbarcarsi, e infatti Arvo e Andrei, appunto questo amico di una vita, Arvo, e si imbarcano su questa corriera che fa anche da dormitorio, un'immensa corriera bianca dormitorio, gestita da una serie di reclutatori organizzati gerarchicamente, un po' strani, e si imbarcano in questo viaggio nell'infinita notte nordica. E questo viaggio verso la loro destinazione, la destinazione di questo cantiere, dove il lavoro ci sarà per sempre, e dove si costruirà una cosa così grande che deve interessare praticamente tutta l'umanità. Però il problema è che all'interno di questa notte gli inganni, i falsi approdi sono molteplici, e quindi i reclutati dovranno superare 5 prove simboliche, 5 tappe che rappresentano delle prove che devono sostenere, e che sono collegate alle peripezie di Ulisse, alle più famose, diciamo, tra le avventure odisseiche. E chiunque riuscirà a superare queste prove finalmente riuscirà a vedere la cosa che perennemente attende, la cosa enorme, il progetto universale, la sublime costruzione. Ecco, questo è l'inizio. Io ho scritto questo romanzo, e sono tanti anni che ci sto lavorando. È una cosa che mi ha accompagnato per veramente parecchio tempo e continuavo a lavorarci, ma non riuscivo mai a trovare una chiave di lettura, una qualcosa che mi desse un senso profondo e forte. Ci voleva la pandemia. Sì, perché era partito come un progetto piuttosto senza vergogna, diciamo. Io volevo parlare di lavoro. Volevo parlare di lavoro perché avevo incominciato con la crisi del 2008. Mm-hmm. C'era stata una crisi che aveva lasciato delle cicatrici profonde nel tessuto sociale, certo, italiano, ma anche quello mondiale. Poi c'è stata la ricaduta nel 2011. Quindi mi sentivo di dover raccontare un improbabile ritorno alla normalità, e sentivo anche il peso di questa responsabilità. E parlando di lavoro, ci sono dei libri, diciamo, che ti insegnano. I libri per me si dividono in due famiglie: quelli che ti insegnano a scrivere e quelli che ti aiutano a sopravvivere. Poi ci sono gli altri, i libri belli, i libri brutti, tutto qua. Tra questi, quelli che ti insegnano a scrivere e a sopravvivere, ci sono pure quelli che ti lasciano delle immagini, che sono come delle schegge che ti restano nel cervello per sempre. Ecco, per me America, che è il primo libro di Kafka, è uno di questi romanzi, e anche questo parlava di lavoro, ed è un romanzo incompiuto, il primo libro, che lui fra l'altro non aveva intitolato America ma Il Disperso, finisce al capitolo 8, quando il giovane protagonista Carl, insieme all'amico, parte per il nuovo teatro di Oklahoma, dove è stato assunto per fare una non si sa che cosa, e parte in treno, passando facendo una traversata della grande America, paesaggi boschivi, tutto quanto bellissimi, e si interrompe lì. Io ho, così, senza vergogna, ho voluto proseguire questo viaggio, e anche perché ero inizialmente rimasto folgorato da questa immagine, che appunto del protagonista di America che arriva davanti alla città di Clayton, dove fanno i colloqui per essere inseriti in questo teatro di Oklahoma. C'è questa, davanti all'ippodromo, c'è questo palco lungo e basso dove stanno in piedi un centinaio di donne vestite da angelo, con queste lunghe tuniche bianche svolazzanti dietro delle grandi ali, che sono delle trombe lunghissime dorate come nel giorno del giudizio, e ognuna di esse è sopraelevata in modo differente. Cioè, alcune stanno su uno zoccolo basso e altre su zoccoli che sono alti anche più di 2 metri, per cui c'è questa platea che crea come una specie di onda di teste, anche quelle lontane sembrano sproporzionate, piccolissime, quelle vicine piccole e basse. Ecco, questa immagine qua è un quadro. Sì, è un'immagine che non ti può lasciare, cioè che indifferente, che ti porti dietro nel tempo. Ecco, io parto da qui e comincio a scrivere questo libro partendo dal realismo, e quindi prendo alcune, come faccio di solito, ho preso alcune storie vere, me le miscolo, me le strapazzo, me le metto delle sottili menzogne, delle piccole invenzioni, le rimpasto, ma scrivo 20-30 cartelle e poi dovevo smettere perché non c'era niente che mi soddisfaceva. For all of this. lavoro ambizioso, perché non solo riprende una delle prime narrazioni della letteratura occidentale, ma ne ricerca anche lo stile omerico con espressioni quali il giorno ormai vecchio e con le similitudini proprie della prosa epica. Scrive Giulia Pretta nella tua prima recensione. Ah sì, infatti Giulia ha lavorato molto bene, ma mi sembra una recensione molto sensibile. Ha trovato, andata a scovare uno dei paragoni omerici che io ricordo di più del lavoro che ho fatto, perché molte cose me le scordo. Ma sì, io ho cercato di lavorare, perché c'è un po' un passaggio, diciamo. Io ti stavo raccontando che ho cercato di lavorare su America, no? E a un certo punto mi sono dovuto interrompere perché non c'era qualcosa che non mi dava soddisfazione. Quindi, eppure mi dicevo, io voglio scrivere un grande racconto epico che narri di un'utopia, di qualcosa di un idealismo utopico. È molto importante l'utopia, soprattutto per me. Io ci lavoro da anni su questo, sul dualismo dei concetti di utopia e orfanità. Ma non c'è niente di più. Tutti i grandi capolavori della letteratura partono da un'utopia, raccontano un'utopia. E quindi mi sono un po' cominciato a rileggere delle cose classiche, sono rivolto ai classici per capire cosa. Anche la Divina Commedia in sé non è altro che un iperbolico affresco utopico, diciamo, dell'altro mondo. Quindi. E quindi rivedendo, ho cercato di capire cos'era che mi portasse una fascinazione così forte anche in un capolavoro classico come la Divina Commedia. Difficile, insomma. E alla fine mi sono reso conto che era la sua irrealtà, cioè la detonante carica simbolica della commedia, no? E da quel momento ho lasciato perdere il realismo e ho cominciato a lavorare con i simboli, a cercare dei simboli che rappresentassero chiaramente il mondo in cui stiamo vivendo. E quindi, pensando al lavoro, ho cominciato a guardarmi intorno, a cercare di capire quale potesse essere un'immagine di riferimento per il viaggio utopico che i miei personaggi stavano cercando di fare. E sono arrivato al cantiere, un cantiere perenne dove il lavoro non finisce mai e dove si stesse costruendo una cosa così immane, così gigantesca, così impressionante, che dovesse poter coinvolgere tutta l'umanità intera, no? La sublime costruzione. E da qui, quando avevo quindi un bandolo della narrazione, potevo già svolgere, capire dove mi portava, mi sono fermato, mi sono rivoltato indietro e il mio pensiero si è annodato intorno a questa parola, il viaggio. Viaggio che per capire era importante, era la parola con cui si dovevano confrontare sia i miei personaggi per arrivare per portare a termine la loro ricerca utopica, sia il personaggio di America di Kafka. E quindi mi sono interrogato, mi sono detto, ma dov'è, sto rivolgendomi sempre ai classici, ai simboli, agli archetipi, in quale racconto mitico si parla del viaggio e che rappresenta la base fondante di tutta la nostra narrativa occidentale? E lì chiaramente sono arrivato all'Odissea. Sì. Non sono abituato a fare della radio così alta, per cui smettiamola subito. Diciamo qualche puttanata. Armenia, aiutami tu. Oddio, fammi pensare. Ora non mi viene, era entrato così in quest'aura. Infatti. Magica. No, una puttanata la posso dire, che secondo me Lucia è un magnete naturale di catastrofi, perché comunque il libro si apre con una guerra che devasta ogni cosa. Siccome con Lucia le piace proprio la deflagrazione, la distruzione. No, a me piace il ciclo. No, aspetta, smentisco subito, mi piace il ciclo, mi piace l'idea dell'acme, certo, poi del ritorno verso lo zero e poi del ripartire, perché in tutte le società astoriche il tempo, quando c'è il rito, si azzera e si riparte dalla creazione. Ma dunque come va a finire sto limbo? Possiamo spoilerare. accattata Villo naturalmente. No, il libro non ha una fine, perché è ancora in divenire. Sono 224 pagine che però stanno diventando ognuno, 440. Esatto, ognuno può scrivere la sua fine, cioè, però dovete comprarlo chiaramente. Purtroppo per poter scrivere la fine dovete 16 euro cartaceo, 6,49 in ebook, e questo lo trovate da Voland. Hanno il sito, no? Per comprarlo? Sì, assolutamente. Se no è distribuito. Sì, certo. Oh, posso fare un po' di pubblicità a Modo Infoshop, che sono tanto bravi, certo. Loro di Via Mascarella. Assolutamente, andate da Modo Infoshop a comprarlo. Certo. Sì, io vorrei anche perorare la causa di tutte le librerie indipendenti, che a Bologna ormai sono rimaste veramente poche. Oltremodo c'è la Confraternita dell'Uva in Via Cartoleria, che è un'altra bellissima libreria con dei ragazzi che lavorano veramente bene. Poi c'è Trame di Via Goito, e poi anche la Ubic, che è anche, però sono inseriti in una catena, ma anche loro lavorano come se fossero indipendenti. Ecco, questi sono, ecco, diciamo, i punti fondanti. Andiamo a chiederti in quale libreria ti servi, adesso lo sappiamo. Sì. Fantastico. No, grazie. No, hai ragione, in effetti, perché è un disastro questa facilità con cui si compra su Amazon online. e poi ti arriva velocemente a casa, costa anche meno, insomma, costa meno, però non c'è quel momento di confronto con il libraio, non vedi gli altri testi, tu entri in una libreria, vedi anche una roba che non c'entra niente, la prendi. Modo Infoshop vedi un sacco di roba che non c'entra niente ed è bellissima. Ed è infatti io faccio fatica ad andarci, proprio perché non vorrei, cioè, tutte le volte che entro spendo un patrimonio. È una tentazione di Sant'Antonio. Esatto. Ma è la scelta del libraio è fondamentale. Io ho fatto anche il libraio nella mia vita precedente. E la scelta dei librai è fondamentale. Infatti tu vedi già la libreria come se ci puoi vivere dentro, lo realizzi già subito dalla prima occhiata, no? Vedi, basta che sfogli due o tre copertine, capisci se è la tua libreria o no. Se è una libreria, quelle di catena sono librerie generiche, come andare in un supermercato sostanzialmente. Fra l'altro, la libreria dove io ho lavorato in via San Vitale è diventato proprio un supermercato. Addirittura? Sì, è diventato una Coop. Comunque, posso fare una Marcord a proposito di librai? Veloce, bravi. Perché la trasmissione sta per finire, esatto. Ahimè. Dai. In via delle Moline, non so se vi ricordate, ma che c'era quella bellissima libreria, certo. Che c'era il libraio Gregorio. Fantastica. Purtroppo anche quello, appunto, lui è morto, poveretto, certo. E la moglie non è rimasta. Non aveva accolto il testimone, no. Però adesso possiamo entrarci e brindare alla sua memoria. Esatto. Perché è come quasi tutto in via delle Moline, è un bar. Ringraziamo molto bene i nostri ospiti, assolutamente. È stata una puntata fantastica. Infatti. Grazie a voi due. Ringraziamo Gianluca Di Dio e Armenia Pan Folklorica. Grazie per l'ospitalità, per questa fantastica puntata. Io ringrazio te, Lucia, che mi hai portato questi ospiti meravigliosi, e stavolta invece non metto le parole del direttore, perché stavolta non ci stanno, per cui metto la sigla finale naturalmente. Io ero Stefano W. Pasquini, questo era Coxo Spaziale, ci sentiamo di nuovo al lunedì dalle 19 alle 20 sempre su Radio Città Fujiko. Ciao a tutti.